Siamo con Ariele Vicenti per parlare del suo nuovo lavoro, Giuseppe Testa, per gli amici Peppino. E sabato e domenica prossimi al Castello Piccolomini di Morrea, in provincia dell'Aquila. Ariele, ben trovato. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Federico. Sì, praticamente facciamo questo primo studio su questo personaggio incredibile che è nato in questo paese e che è ormai disabitato praticamente. È un borgo antico dell'anno 1000 che si trova nella Valle Roveto, cioè tra Vezzano e Sora, e racconto questa storia di questo ragazzo perché, che fu un partigiano però inconsapevole, ecco, e venne messo in mezzo un po' dai tedeschi, loro in questo paese, dopo l'8 settembre, sì, racconto, faccio un po' un preambolo storico, Sì. dopo l'8 settembre molti prigionieri alleati fuggivano dai campi di prigionia di Avezzano per ritornare sul fronte di Cassino e durante il tragitto si imbattevano in questo paesino che è proprio di passaggio nella zona. E dove trovavano tutta la popolazione intenta ad ospitarli, a nasconderli, rischiando la vita, perché poi comunque in tutta la zona, in quegli anni, in quei mesi, era una zona in cui c'era un'occupazione nazista e quindi di nascosto dai soldati nazisti, questa popolazione si mise subito all'opera per nascondere e dare generi di conforto a tutti i soldati alleati che scappavano dai campi di prigionia. E pensa che questo era un paese che all'epoca aveva 450 abitanti e ci sono stati per dei mesi, hanno nascosto circa 5.000 soldati alleati che scappavano dai campi di prigionia. Li nascondevano nelle grotte, nelle cantine, nelle stalle di campagna e dando loro generi di conforto. Insomma, poi all'epoca non è che in quei paesi si viveva nella ricchezza più sfrenata, anzi, insomma, le provviste erano poco e loro quel poco che avevano lo dividevano con i soldati, quindi rischiando poi la vita. E Giuseppe Testa era questo ragazzo di 19 anni che era un po' il referente di questo movimento di accoglienza che si era creato a Morrea. Venne catturato dai nazifascisti, torturato per 2 mesi, questo ragazzo di 19 anni, insomma, torturato per 2 mesi e lui non collaborò naturalmente con i nazifascisti e quindi alla fine pagò con la vita questo suo silenzio. Diciamo epica la sua frase quando dopo circa 40-50 giorni che lo torturavano i nazisti hanno fatto una proposta di metterci con loro per avere salva la vita. Lui ha risposto: la vostra divisa disonora l'uomo. E quindi poi fu ammazzato nel maggio del 44. E noi raccontiamo la storia, ecco, di questo ragazzo, ma raccontiamo tante altre cose, raccontiamo anche appunto dell'accoglienza spontanea che si riceve nei paesi, no? E quindi anche loro, tutti questi contadini all'epoca che si sono adoperati per solo avvalendosi del fattore umano, insomma, ecco. Quindi Sì. non c'è una connotazione politica, sì, sicuramente c'era un drappello partigiano che agiva su quelle montagne, però ecco, la cosa che ci interessa è parlare proprio dell'altruismo, insomma, quindi del rischiare la vita per aiutare il prossimo, ecco, insomma, infatti. Ariele, come sei incappato in questa storia? Allora, io sono incappato perché io sono originario di quelle zone, mia madre è di quella zona. E quindi piano piano sto cominciando a fare delle ricerche sulle storie dimenticate dell'Abruzzo e quindi sono partito, ecco, da questo ragazzo, ho letto un paio di libri sulla sua vita e ho scritto questa cosa e la interpreterò insieme a un coro popolare di Roccavivi, che è una frazione dello stesso comune di Morrea, quindi ci saranno 20 elementi di coro con una piccola orchestra e naturalmente intramezzeremo la recitazione, quindi il racconto, con anche dei canti popolari abruzzesi tipici della zona. Senti, considerato che si tratta di uno studio, immagino che lo svilupperai poi in spettacolo. Volevo sapere anche se in rete c'è già uno spazio di riferimento, sito internet, pagina Facebook o qualcosa del Guarda, genere. ancora no, perché come diceva proprio un primo studio, poi noi lo dovevamo fare a fine marzo, è stato spostato per le giornate del Fai, per il maltempo, quindi è tutto ancora in stand-by. Sicuramente farò delle ricerche su, cioè uno dei miei prossimi lavori sarà raccontare dei personaggi sconosciuti abruzzesi. Dice Ok. questo è matto, lo so, ognuno poi ha le sue esigenze, no? Certo, Come ti dico. certo. E quindi tra questi sicuramente ci sarà anche Giuseppe Testa. Sì. Senti, oltre a questi due libri, hai raccolto anche qualche testimonianza? Sì, ho parlato con un po' di persone anziane della zona che mi hanno raccontato appunto il contesto storico soprattutto in cui si svolgevano queste vicende, quindi anche come viveva la popolazione locale nel 43, perché poi purtroppo quella è una zona che per la seconda guerra mondiale, insomma, hanno pagato molto alto il prezzo, perché era una zona situata alle spalle del fronte della linea Gustav, con tutto ciò che ne conseguiva. Quindi la popolazione subiva spesso ritorsioni, subivano furti di animali, eccetera, che poi venivano portati come rifornimento alla linea Gustav. Ho Per capito. questi, racconto questo aneddoto brevissimo. Ho trovato questo aneddoto, appunto c'era un signore che aveva un asino che si chiama Crescenzo, e i nazi fascisti hanno preso il suo asino e l'hanno portato a fare la guerra praticamente sul fronte, quindi a caricare le munizioni eccetera ai tedeschi. Finita la guerra, l'asino se lo prese un altro signore, lo stava riportando nel suo paese. Però quest'asino è arrivato davanti alla casa di questo Crescenzo, il suo padrone, si è inchiodato lì. Crescenzo è uscito di casa e dopo 7 mesi ha rivisto il suo vecchio asino e si è commosso, ha abbracciato l'asino. Quindi raccontiamo anche questo tipo di aneddoti, cioè raccontare anche la guerra da un altro punto di vista. Questo, insomma, è una cosa che ci interessa Sì. molto. Allora, ricordiamo l'appuntamento con il primo studio dello spettacolo Giuseppe Testa per gli amici Peppino di e con Ariele Vicenti, sabato 14 e domenica 15 aprile al Castello Piccolomini di Morrea in provincia dell'Aquila. Ariele, è sempre un piacere. Sì. Pure per me è un piacere, voglio dire, perché questo progetto rientra con le giornate del FAI, Sì. sai, il FAI, il fondo che diciamo cerca di rivalutare i Sì, posti sì, sì, dimenticati. sì. Quindi queste 2 giornate sono 2 giornate di festa in questo paese, Morrea, dove oggi vivono soltanto 3 abitanti. Quindi speriamo che almeno vengano le persone dei paesi vicino, insomma. Quindi per l'occasione riapre appunto il Castello Piccolomini, che è un posto meraviglioso, appunto dimenticato e non conosciuto della nostra bella provincia. Ariele, t'abbraccio, un in bocca al Grazie, lupo e a anche io presto. un abbraccione, ciao Federico, ciao Ciao. ciao ciao.